Wang Lung e la sua famiglia non odiavano nessuno di quell'orda di uomini oziosi nelle corti esterne più di quanto odiassero e temessero quel loro cugino. Era così, nonostante gli uomini strapazzassero gli alberi e gli arbusti fioriti dei pruni e dei mandorli, spezzandoli quando gli andava, e nonostante rovinassero gli intagli delicati delle sedie con i loro grossi stivali di cuoio, e nonostante insozzassero della loro personale sporcizia le vasche dove nuotavano i pesci rossi e maculati, tanto che i pesci morivano e venivano a galla sull'acqua e lì marcivano con i ventri bianchi rivolti in su. Il cugino, infatti, correva dentro e fuori come gli pareva e buttava gli occhi sulle schiave e Wang Lung e i suoi figli si guardavano con gli occhi smunti e incavati perché non osavano dormire. Cucù se ne accorse e disse: «C'è solo una cosa da fare, bisogna dargli una schiava per il suo piacere, fin tanto che è qui, o prenderà là dove non dovrebbe». E Wang Lung si aggrappò immediatamente a queste parole perché gli sembrava di non poter più sopportare la vita con tutto il trambusto che c'era nella sua casa e così disse: «È una buona idea». E ordinò a Cucù di chiedere al cugino quale schiava volesse perché le aveva viste tutte. Cucù fece così, poi tornò e disse: «Dice che vuole quella piccola pallida che dorme sul letto della padrona». La schiava pallida era chiamata Fiore di Pero ed era quella che Wang Lung aveva comprato in un anno di carestia quando era piccola e malnutrita da far pietà e siccome era delicata l'avevano sempre viziata permettendole di aiutare solamente Cucù e di fare qualche piccolo servizio per loto, riempire la pipa e versare il tè ed era così che il cugino l'aveva vista. Quando Fiore di Pero sentì questo lanciò un grido proprio mentre versava il tè per loto perché Cucù raccontò tutto di fronte a loro. Nel cortile interno dove sedevano, rovesciò così la teiera che andò in mille pezzi e tutto il tè si versò fuori. Ma la ragazza non vide quel che aveva fatto. Si gettò a terra davanti a Loto e batté la testa sulle piastrelle e disse gemendo: oh no, padrona, non io, non io! Ho paura di lui! Ho paura per la mia vita!» E Loto fu scontenta di lei, rispose irritata. «È solo un uomo. È un uomo, non è niente di più che un uomo quando è con una ragazza. Sono tutti uguali. Che bisogno c'è di agitarsi?» E si girò verso Cucù e disse: «Prendi questa schiava e dagliela». La ragazzina giunse le mani in modo straziante e pianse come se dovesse morire di pianto e di paura. Il suo piccolo corpo tremava tutto e lei guardava un viso dopo l'altro, supplicando con le sue lacrime. I figli di Wang Lung non potevano parlare contro la moglie del padre e se non parlavano loro non potevano farlo nemmeno le loro mogli o il figlio minore, il quale stava lì guardandola con le mani chiuse sul petto e le sopracciglia abbassate sugli occhi dritte e nere, ma non parlò. I bambini e le schiave guardavano in silenzio e si sentiva solo il pianto terribile e spaventato della ragazzina. Wang Lung si sentì allora a disagio e la guardò con aria perplessa, non volendo far arrabbiare Loto, ma commosso perché il suo cuore era tenero. La ragazza vide il cuore nel suo viso, corse da lui e gli prese i piedi con le mani, vi chinò sopra la testa e pianse con grandi singulti. Lui abbassò lo sguardo su di lei e vide quant'era piccola. Quanto erano piccole le sue spalle e come tremavano, e pensò al grande corpo del cugino, rozzo e selvaggio, ormai non più giovane, e un'avversione per quella faccenda lo prese e disse gentilmente a Cucù: «No, non va bene costringere la ragazzina a questo modo». Disse quelle parole con gentilezza, ma Loto esclamò in tono pungente: «Deve fare come ho detto, e mi sembra assurdo tutto questo piangere per una piccola cosa che prima o poi succede a tutte le donne». Ma Wang Lung fu comprensivo e disse a Loto: «Prima vediamo cos'altro si può fare. Se vuoi ti comprerò un'altra schiava o quello che vuoi, ma lasciami vedere cosa si può fare». Allora Loto, che da tempo sognava un orologio straniero e un nuovo anello con un rubino, tacque all'improvviso. E Wang Lung disse a Cucù: «Vai a dire a mio cugino che la ragazza ha una brutta e incurabile malattia, ma se la vuole va bene e andrà da lui, però se come tutti noi ha paura, digli che ne abbiamo un'altra, sana». E gettò uno sguardo alle schiave lì intorno, che si girarono altrove e ridacchiarono, come se si vergognassero, tutte tranne una ragazzotta robusta che aveva già una ventina d'anni e che disse col viso rosso e ridendo: «Bene, ho sentito parlare abbastanza di questa cosa e ho voglia di provarla. Se lui mi vuole e come uomo non è così ripugnante come gli altri». A questo punto Wang Lung rispose sollevato: «Bene, vai allora». E Cucù disse: stammi ben dietro perché sono sicura che afferrerà il frutto che gli sarà più vicino. E uscirono. La ragazzina, che continuava a stringere i piedi di Wang Lung, solo a quel punto smise di piangere e si mise ad ascoltare ciò che succedeva. Loto era ancora arrabbiata con lei. Si alzò e andò nella sua stanza senza dire una parola. Allora Wang Lung fece alzare delicatamente la ragazza che ora gli stava davanti, pallida e abbattuta, e vide che aveva un viso ovale, piccolo e morbido, a forma di uovo, estremamente delicato e pallido, e una piccola bocca di un rosso pallido, e le disse gentilmente: Restatene lontana adesso dalla tua padrona per un giorno o due, bambina mia, fin quando non avrà dimenticato la sua rabbia, e quando quell'altro arriva, nasconditi o ti desidererà di nuovo. E la ragazzina alzò gli occhi e gli rivolse uno sguardo pieno e intenso. Poi gli passò davanti, silenziosa come un'ombra, e se ne andò. Il cugino visse là per una luna e mezza ed ebbe la ragazzotta quando la voleva, e lei concepì e se ne vantò nelle corti. Poi all'improvviso la guerra chiamò e l'orda si allontanò in fretta come paglia afferrata e portata dal vento, e non rimase nulla se non la lordura e la distruzione che aveva provocato. E il cugino di Wang Lung si mise il coltello alla vita e si fermò davanti a loro col fucile in spalla e disse in tono beffardo: Bene, e se non torno da voi ho lasciato un altro me stesso e un nipote per mia madre. E non è cosa da tutti lasciare un figlio dove ci si ferma per l'una o due, ed è uno dei vantaggi della vita del soldato. Il suo seme germoglia dietro di lui e altri devono accudirlo. E ridendo davanti a tutti loro si allontanò con gli altri. 32. Quando i soldati se ne furono andati, Wang Lung e i suoi figli più grandi per una volta tanto si trovarono concordi sul fatto che ogni traccia di quel che era appena passato doveva essere cancellata. E chiamarono di nuovo falegnami e muratori, e i servi pulirono le corti, e i falegnami ripararono abilmente gli intagli e i tavoli rotti, le vasche furono ripulite dalla sporcizia, e vi fu versata acqua fresca e pulita, e di nuovo il figlio maggiore comprò pesci immacolati e dorati, e piantò di nuovo alberi che si sarebbero coperti di fiori, e tagliò i rami spezzati degli alberi rimasti, e nel giro di un anno tutto era di nuovo pulito e fiorente. E ogni figlio si era trasferito di nuovo nella sua corte e dappertutto era tornato l'ordine. Alla schiava che aveva concepito per il figlio dello zio di Wang Lung ordinò di servire la moglie dello zio fin quando fosse stata in vita, il che non poteva essere a lungo, e di metterla nella bara alla sua morte. E Wang Lung si rallegrò vedendo che la schiava partorì soltanto una bambina, perché se fosse stato un maschio ne sarebbe stata orgogliosa e avrebbe reclamato un posto nella famiglia. Ma trattandosi di una bambina era solo una schiava che metteva al mondo una schiava, e la donna non era niente più di quanto fosse stata prima. Eppure Wang Lung era giusto nei suoi confronti come in quelli di tutti, e le disse che poteva avere per sé la stanza della vecchia se lo voleva, quando quella fosse morta, e avrebbe avuto anche il letto, e con 60 stanze nella casa non sarebbero certo mancati un letto e una stanza. E diede alla schiava un po' d'argento, e la donna fu contenta, tranne che per una cosa che disse a Wang Lung quando lui le diede l'argento. Tieni l'argento come dote per me, padrone, disse, e se non è troppo fastidio, sposami a un contadino o a un buon povero. Tu acquisterai un merito, e per me, avendo vissuto con un uomo, è difficile tornare al mio letto da sola. Wang Lung glielo promise volentieri, e dopo averlo promesso fu colpito da un pensiero, ed era questo. Stava promettendo di dare una donna a un povero, e un tempo lui era stato il povero venuto in quelle stesse corti per la sua donna. Per metà della vita non aveva più pensato a Olan, e ora pensava a lei con una tristezza che non era dolore, ma solo il peso della memoria e di cose passate da molto tempo, tanto era ormai distante da lei, e disse in tono grave: Quando la vecchia sognatrice nell'oppio morirà, troverò un uomo per te, e non sarà fra molto. E Wang Lung fece come aveva detto. Un mattino la donna venne da lui e disse: Adesso esaudisci la tua promessa, padrone, perché la vecchia è morta questa mattina senza nemmeno svegliarsi, e l'ho messa nella sua bara. E Wang Lung pensò a quale uomo conoscesse sulla sua terra, e gli venne in mente il ragazzo piagnucolante che aveva causato la morte di Ching, quello con i denti che spuntavano dritti sopra il labbro inferiore, e disse: Beh, non l'ha fatto con intenzione, non è peggiore degli altri, ed è l'unico che mi viene in mente adesso. Mandò allora chiamare il ragazzo che arrivò, e ormai era un uomo fatto, ma ancora grezzo, e i denti erano ancora così. E Wang Lung ebbe il capriccio di sedere sulla pedana nella grande sala e di convocare i due davanti a sé, e disse lentamente, in modo da poter gustare fino in fondo quello strano momento: «Ecco, amico, qui c'è questa donna e sarà tua se la vorrai, e nessuno l'ha conosciuta se non il figlio di mio zio». E l'uomo la prese, grato perché era una ragazza robusta e di buon carattere, e lui era troppo povero per sposare un'altra. E Wang Lung scese dalla pedana ed ebbe l'impressione che il ciclo della sua vita si fosse chiuso e di aver fatto tutto ciò che voleva fare nella vita, più di quel che avrebbe mai sognato di poter fare, e lui stesso non sapeva come fosse successo. Solo ora gli parve che la pace potesse davvero raggiungerlo e che avrebbe potuto sonnecchiare al sole. Era tempo ormai, perché era vicino ai 65 anni di età e i suoi nipoti erano come giovani bambù attorno a lui. Tre erano i figli del primo figlio, il maggiore aveva quasi 10 anni e c'erano poi i due del suo secondo figlio. Bene, e c'era poi il terzo figlio da sposare presto e a quel punto niente più l'avrebbe turbato nella vita e sarebbe stato in pace. Ma non ci fu pace. L'arrivo dei soldati era stato quasi come l'arrivo di uno sciame di api inferocite che lasciano indietro ovunque possono i segni delle loro punture. La moglie del figlio maggiore e la moglie del secondo figlio, che avevano reciprocamente usato gentilezza fin quando avevano vissuto insieme in una sola corte, ora avevano imparato a odiarsi con veemenza. L'odio era sorto da un centinaio di piccole liti. Le liti che sorgono fra donne i cui figli devono vivere e giocare insieme e combattersi come cani e gatti. Ogni madre correva in difesa del proprio figlio ed era pronta a distribuire ceffoni ai figli dell'altra, ma risparmiava i suoi, che in ogni lite avevano sempre ragione. E così le due donne erano nemiche. E da quel giorno in cui il cugino aveva mostrato di apprezzare la moglie di campagna e aveva riso della moglie di città, quel che era accaduto allora non si poteva perdonare. La moglie del figlio maggiore sollevava il capo con arroganza quando passava davanti alla cognata e un giorno che l'altra stava appunto passando, disse ad alta voce al marito: «È duro avere una donna sfacciata e rozza in famiglia, tanto che un uomo può chiamarla carne rossa e lei gli ride in faccia». E la moglie del secondo figlio non si fece attendere, ma rispose ad alta voce: «Ah, adesso mia cognata è gelosa perché un uomo l'ha chiamata pezzo di pesce freddo». E così nacquero l'odio e gli sguardi furiosi, anche se la più anziana, orgogliosa della sua inappuntabilità, mostrava solo un disprezzo silenzioso, attenta a ignorare la presenza stessa dell'altra. Ma quando i suoi bambini uscivano dalla loro corte, gridava: «Voglio che ve ne stiate lontani da quei bambini maleducati». Gridava così in presenza della cognata a portata di sguardo nella corte successiva, e l'altra gridava allora ai propri figli: «Non giocate con i serpenti o vi morderanno!». Le due donne presero così a odiarsi sempre di più, il che era tanto più doloroso perché nemmeno i due fratelli si amavano. Il maggiore aveva sempre paura che le sue origini e la sua famiglia apparissero umili agli occhi di sua moglie, che era cresciuta in città e per nascita gli era superiore. Il minore aveva invece paura che l'ansia del fratello di spendere per la propria posizione sociale li portasse a scialacquare l'eredità ancora prima che fosse divisa. Era inoltre un motivo di vergogna per il fratello maggiore il fatto che il secondo fratello sapesse quanti soldi aveva il padre e quanto veniva speso e che quei soldi passassero per le sue mani, e quindi, nonostante Wang Lung ricevesse e disponesse di tutti i soldi delle sue terre, che il minore sapesse quanti erano e il maggiore no, ma dovesse andare dal padre e chiedere per questo e quello come un bambino. L'odio delle due mogli si estese così agli uomini e nelle loro corti covava la rabbia, e Wang Lung si lamentava perché non aveva pace in casa sua. Wang Lung aveva anche il suo tormento segreto a causa di Loto, fin da quando aveva protetto la sua schiava dal figlio dello zio. Da quel giorno la ragazzina era caduta in disgrazia con Loto, e nonostante accudisse in silenzio e servilmente la padrona, standole accanto tutto il giorno per riempire la pipa e andando a prenderle qualsiasi cosa, alzandosi di notte ai suoi lamenti quando non riusciva a dormire e sfregandole le gambe e il corpo per calmarla, nonostante tutto ciò Loto non era soddisfatta. Era anche gelosa della ragazza e quando Wang Lung entrava la mandava fuori dalla stanza, accusando lui di guardarla. Huang Lung in realtà non aveva pensato alla ragazza se non come a una povera bambina spaventata e teneva a lei come avrebbe potuto tenere alla sua scioccherella, non di più. Ma dopo le accuse di Lotto la guardò e vide che era davvero una ragazza molto graziosa e pallida come un fiore di pero, e nel suo vecchio sangue si agitò allora qualcosa che era stato quieto negli ultimi 10 anni e più. Così, mentre rivolto a Lotto rideva dicendo: «Cosa stai pensando? Che ho ancora voglia, adesso che nella tua stanza non ci vengo nemmeno 3 volte all'anno». Nel frattempo guardava in obliquo la ragazza e qualcosa in lui si agitava. Per quanto Lotto fosse generalmente ignorante, non lo era in una cosa. Lotto conosceva, cioè, gli uomini e le donne, e sapeva che gli uomini già vecchi si risvegliano ancora una volta a una breve gioventù, ed era perciò arrabbiata con la ragazza e parlava di venderla alla casa da tè. Lotto, però, amava la sua comodità e Cucù era ormai vecchia e pigra, mentre la ragazza era svelta e conosceva bene Lotto, e ancora prima che la padrona si rendesse conto di avere bisogno di qualcosa, lei l'aveva già capito, e quindi era riluttante a mandarla via, e tuttavia voleva farlo. In questo inusuale conflitto, Lotto era ancora più piena di rabbia a causa del suo disagio, e vivere con lei era più difficile del solito. Wang Lung si teneva lontano dalla sua corte per molti giorni di seguito perché il suo umore era troppo cattivo. Si diceva che avrebbe atteso, pensando che sarebbe passato, ma nel frattempo pensava alla giovane pallida e graziosa più di quanto lui stesso aveva creduto potesse accadergli. Poi, come se non mancassero i guai con le donne di casa tutte scontrose, ci fu il figlio minore di Wang Lung. Era stato in realtà un ragazzo così tranquillo, chino sui libri a cui si era avvicinato già da grande, che nessuno vedeva in lui altro che un giovane alto ed esile, sempre coi libri sotto il braccio, e un anziano tutore che lo seguiva dappertutto come un cane. Ma il ragazzo aveva vissuto in mezzo ai soldati quando erano stati là, e aveva ascoltato i loro racconti di guerre, di razzia e di battaglia, che ascoltava rapito, senza dire una parola. Poi supplicò il tutore di dargli dei romanzi, storie delle guerre dei tre regni e dei banditi che nei tempi antichi vivevano attorno al lago di Suai, e la sua mente era piena di sogni. Allora andò da suo padre e disse: «So quello che voglio fare, voglio essere un soldato e partire per le guerre». Sentendo quelle parole, Wang Lung pensò con grande sgomento che era la cosa peggiore che gli potesse capitare ed esclamò ad alta voce: «Ma che follia è questa? Non devo proprio avere pace con i miei figli». E si mise a discutere con il ragazzo e tentò di essere gentile e cortese quando vide le sue sopracciglia nere unirsi in una linea e disse: «Figlio mio, fin dai tempi antichi si dice che non si prende del buon ferro per fare un chiodo e nemmeno un buon uomo per fare un soldato. E tu sei il mio figlio piccolo, il mio prediletto figlio minore. Come farò a dormire la notte se tu vagherai per la terra facendo guerre?» Ma il ragazzo era determinato, guardò il padre, abbassò le sopracciglia nere e disse: «Voglio andare». Allora Wang Lung cercò di persuaderlo dicendo: «Puoi andare in qualsiasi scuola tu voglia, ti manderò nelle grandi scuole del sud o anche in una scuola straniera a imparare cose curiose, potrai andare dovunque vorrai a studiare se non diventerai soldato. È una disgrazia per un uomo come me, un uomo ricco di argento e terre, avere un figlio soldato». E poiché il ragazzo continuava a tacere, cercò di persuaderlo ancora dicendo: «Dillo al tuo vecchio padre, perché vuoi fare il soldato?» E il ragazzo disse all'improvviso, gli occhi accesi sotto le sopracciglia: «Ci sarà una guerra come non abbiamo mai conosciuto, ci sarà una rivoluzione e ci saranno combattimenti e una guerra come non ce n'è mai state, e le nostre terre saranno libere!» Wang Lung lo ascoltò con lo stupore più grande che i suoi 3 figli gli avessero mai procurato. «Cosa sia tutto questo non lo so», disse sorpreso. «Le nostre terre sono già libere. Tutte le nostre buone terre sono libere. Le do in affitto a chi voglio e mi portano argento e buon grano. E tu hai da mangiare e da vestire. E sei sazio grazie alle terre. Non capisco quale altra libertà desideri oltre a quella che hai». Ma il giovane mormorò solo in tono aspro: «Tu non capisci, sei troppo vecchio. Tu non capisci niente». E Wang Lung rifletté. E guardò il figlio e vide il viso giovane e sofferente e pensò: «Ecco che ho dato tutto a questo figlio, a partire dalla vita. Tutto quello che ha gli viene da me. Gli ho permesso addirittura di lasciare la campagna e gli ho permesso di leggere e scrivere, anche se non ce n'è bisogno nella mia famiglia, con già 2 che lo sanno fare». E pensò e si disse ancora, continuando a fissare il ragazzo: «Questo Questo mio figlio ha avuto tutto da me. Poi lo guardò da vicino e vide che era alto già come un uomo, pur avendo anche l'esilità del giovane, e un po' esitante, mormorando a bassa voce, disse: Beh, forse ha bisogno di un'altra cosa. E a quel punto disse a voce alta e lentamente: Bene, ti sposeremo presto, figlio mio. Ma il ragazzo gettò al padre uno sguardo di fuoco da sotto le folte sopracciglia unite e disse sprezzante: Allora sì che scapperò. Per me una donna non è la risposta a tutto come per mio fratello maggiore. Huang Lung capì subito di aver sbagliato e allora si affrettò a dire per scusarsi: No, no, non ti sposeremo, ma voglio dire, se c'è una schiava che desideri. Il ragazzo rispose con sguardo superbo e pieno di dignità, incrociando le braccia sul petto: Io non sono un giovane come tanti altri. Ho i miei sogni. È la gloria che desidero. Donne, ce ne sono dappertutto. Poi, come se ricordasse qualcosa che aveva dimenticato, abbandonò all'improvviso quell'aria di dignità. Le braccia gli caddero lungo i fianchi e disse con la sua solita voce: E poi. Schiave così brutte come le nostre non si sono mai viste. Se mi importasse, ma non mi importa, non c'è una sola bellezza nelle corti, tranne forse la ragazzina pallida che serve la donna delle corti interne. Allora Wang Lung capì che stava parlando di fiore di pero e fu colpito da una strana gelosia. All'improvviso si sentì più vecchio di quanto fosse, un uomo vecchio dal ventre troppo abbondante e i capelli grigi. E vide suo figlio così snello e giovane, e in quell'istante non furono padre e figlio, ma due uomini, uno vecchio e uno giovane. E Wang Lung disse con rabbia: Tieniti lontano dalle schiave. Non voglio modi perversi da giovani signori in casa mia. Siamo brave e forte gente di campagna, persone per bene, e non voglio da me queste cose. Allora il ragazzo aprì gli occhi e sollevò le sopracciglia nere, e si strinse nelle spalle e disse al padre: Sei stato tu il primo a parlarne. E si girò per andarsene. Wang Lung rimase nella sua stanza, seduto al tavolo, sentendosi solo e oppresso, e mormorò fra sé: Non ho proprio pace in nessun luogo nella mia casa. Era confuso, in preda a molti generi di rabbia, ma sebbene non ne capisse il motivo, quella rabbia sovrastava le altre. Suo figlio aveva posato lo sguardo su una pallida ragazzina nella casa e l'aveva trovata bella. 33. Wang Lung non riusciva a non pensare a quel che il figlio minore aveva detto su Fiore di Pero e osservava incessantemente la ragazza andare e venire e senza rendersene conto il pensiero di lei riempì la sua mente e se ne invaghì, ma non disse niente a nessuno. Una sera di quell'anno, al principio dell'estate, nell'ora in cui l'aria è densa e morbida per i vapori del calore e dei profumi, sedeva riposando da solo nella sua corte sotto un albero di cassia. E l'odore dolce e pesante dei fiori gli riempiva le narici. Sedeva dunque là e il suo sangue scorreva pieno e caldo come il sangue di un giovane. L'aveva sentito così tutto il giorno e aveva quasi pensato di camminare fino alla sua campagna e sentire la buona terra sotto i piedi e togliersi le scarpe e le calze e sentirla sulla pelle. Avrebbe voluto farlo, ma temeva che lo vedessero e si vergognava, lui che all'interno delle porte cittadine non era più considerato un contadino, ma un proprietario terriero e un ricco. Vagò allora irrequieto per le corti, tenendosi lontano da quella dove Loto stava seduta all'ombra e fumava la sua pipa d'acqua, perché lei sapeva, quando un uomo era irrequieto e il suo sguardo acuto capiva cosa non andasse. Così girava da solo e non aveva voglia di vedere le sue litigiose nuore e nemmeno i nipoti che tanto spesso gli davano gioia. La giornata era passata così, lunga e solitaria, e il suo sangue scorreva con forza sotto la pelle. Non riusciva a non pensare al figlio minore, alla sua figura alta ed eretta, con le sopracciglia nere unite, serio nella sua giovinezza, e non riusciva a non pensare alla ragazza, e si disse: Devono avere la stessa età. Il ragazzo deve avere superato i 18 e lei deve esserci vicina. Allora si rese conto che lui avrebbe raggiunto fra non molto i 70 e si vergognò del proprio sangue che scorreva rapido e pensò: sarebbe una buona cosa dargli la ragazza. E continuò a ripeterselo e ogni volta che lo diceva era come una pugnalata nella carne già dolorante, eppure non poteva fare a meno di affondare il pugnale e di sentire il dolore. E così la giornata passò. Lunghissima e solitaria. Quando arrivò la notte, era ancora solo, seduto nella sua corte in solitudine e non c'era nessuno in tutta la casa da cui potesse andare. sicuro di trovare un amico. E l'aria notturna era spessa e morbida e calda, carica dell'odore dei fiori e dell'acassia. E mentre sedeva nel buio sotto l'albero, qualcuno passò accanto al posto dove lui stava, vicino alla porta della sua corte, e così lanciò un rapido sguardo ed era Fiore di Pero. «Fiore di Pero!» chiamò, e la sua voce uscì in un sussurro. Lei si fermò all'improvviso, la testa china ad ascoltare. Poi chiamò ancora e la sua voce faticò a uscire dalla gola. «Vieni qui da me!» Sentendolo, lei varcò timorosamente il portone. Egli si fermò davanti e lui la intravedeva appena nel buio, ma poteva sentire che c'era. Tese allora la mano e afferrò la sua giacchetta e disse: «Sei mi strozzato, bambina!» E dopo aver pronunciato quella parola, tacque. Si disse che era un vecchio ed era una vergogna per un uomo con nipoti più vicini all'età di quella ragazzina di quanto non fosse lui. E toccò la sua giacchetta. Allora lei, in attesa, colse il calore del suo sangue e si chinò, per poi scivolare a terra. Come un fiore che avvizzisce sul proprio stelo, egli afferrò i piedi e rimase lì. E Wang Lung disse lentamente: «Bambina, io sono un vecchio, un uomo molto vecchio». E la voce di lei disse, uscendo dall'oscurità come il respiro stesso dell'acassia: «Mi piacciono i vecchi, mi piacciono i vecchi, sono così gentili». Lui disse ancora teneramente, chinandosi un po' su di lei: «Una ragazzina come te dovrebbe avere un bel ragazzo alto, una ragazzina come te». E dentro di sé aggiunse: «Come mio figlio». Ma non lo disse ad alta voce perché avrebbe potuto instillarle il pensiero e non riusciva a sopportarlo. Lei però disse: «I giovani non sono gentili, sono solo violenti». E sentendo la sua vocina infantile vibrare accanto ai propri piedi, il suo cuore fu sommerso da una grande onda d'amore per quella ragazza, e la prese e la fece alzare gentilmente, e poi la condusse nelle sue corti. Quando fu finito, quell'amore anziano lo stupì più delle sue voglie in passato, perché malgrado tutto l'amore che nutriva per Fiore di Pero, non la prese come aveva preso le altre che aveva conosciuto. No. La strinse gentilmente ed era contento di sentire la sua giovinezza contro la propria carne vecchia e pesante, e gli bastava la vista di lei durante il giorno e il tocco della sua giacca svolazzante sulla propria mano e il suo corpo che nella notte riposava quieto accanto al proprio. E si meravigliò dell'amore della vecchiaia, che è così tenero e si lascia così facilmente soddisfare. Quanto a lei, era una ragazza priva di passione, si attaccò a lui come a un padre, e con lui era una mezza bambina e quasi per nulla una donna.